su 10, cambio! Pensare. Avanti, Tony. lo so, Santiago 9 più 2 qua, non lo so. No, qua non posso avere. No? No, no. E allora dalle tue parti, vicino a te, sicuramente vicino a te. E vabbè, proprio le volte a Bulaedo, chi se ne frega? A lui e anche a lui. Dai, non è un importante, ero io, stavo facendo ascoltare, mi sto qua. Questo è fissato con i baracchini modificati, esce in una maniera allucinante. Cioè questo baracchino non so quanto l'ha pagato, ma esce veramente una radio supersonica. Auguri Luca. Auguri anche a te, auguri a tutti voi lì, auguri anche a Giulio, a te li ho fatti già 20 volte, 30 volte su WhatsApp, 20 volte su Facebook, te che ballate, avanti Giulio, riprendi. Ok Luca, ciao, tanti auguri anche a te, certo, hai famiglia naturalmente, tutto bene. E chi è questo così presuntuoso, che va tutti quanti questi baracchini così potenti, eccetera, eccetera? Di chi stavi parlando? Uno di fuori, adesso non mi ricordo adesso come si chiama, annaggia, ma è forte, esce in una maniera, è radioamatore anche, ma esce veramente forte quel tipo, mistica. Poi mi sa che c'è un amplificatore di quelli a 24, tipo quello che c'è Massimiliano, ma esce veramente forte, forte, forte. E che frequenza è? No, su Facebook si fa le dirette, adesso non mi ricordo come cavolo si chiama, annaggia. Capito. Va bene. Sì, appunto, parte della pioggia, guarda, abbiamo una pioggia piena, troppo c'è. Ho capito, Luca, non è che per caso si chiama Francesco, no, non credo però, non credo. So che mette dei suoi filmati anche su Facebook per far sentire, ma non a titolo di disturbo, sia ben chiaro, non è questo che voglio dire. Lo fa solo per far vedere magari certe prestazioni di qualche radio che ha messo a posto o di qualche antenna. Non so se lui, sto facendo solamente un nome così a caso, o Luca. No, questo è, non è un, questo mi serve un camionista, non è un riparatore di baracchini. No, si fa sempre le dirette, si chiama Cicillo, buh. No, ho capito, no. Vabbè, no, perché siccome io seguo sempre un amico, che tra l'altro è un grande amico, che fa appunto dei filmati e li mette su Facebook, ma solo a titolo di informativo per tutti quelli che sono appassionati della radio, non certamente per disturbare, anche perché so che è una persona molto, ma molto corretta, oltre che molto preparata in materia. Va bene, tutto ok, d'accordo. Alle prossime allora, quando lo sentiremo vedremo cosa fare. Avanti Antonio. Ve ne so che ce ne fosse, ma forte però con le radio, la passione. La passione Antonio, cosa ci vuoi fare? Quando uno è appassionato alla radio può fare quelle altro, interessante comportarsi sempre bene, quello è importantissimo. Aspettate un attimino, voglio fare una chiamata perché stamattina stavo parlando con un amico telefonicamente e poi adesso che c'è l'ascolto, vediamo un po', perlomeno c'era un mezzo impegno nell'ascoltarci più o meno. Attento Giulio, ci sei in ascolto? Giulio non c'è in ascolto, Giulio ci sei in ascolto? Dammi Roger se ci sei. Non ci sei tu. No, è un altro Giulio. Ciao qua. Auguroni di nuovo, avanti. Ciao, auguri a tutti, buon anno. Ma Giulio, ci ammendi a Giulio. Ma non so cosa lui o no, che mi chiamo Giulio. Quando ero ragazzino ero convinto che mi chiamavo solo io Giulio, invece me ne sono una marea di Giulio. Va bene, dai. Paolino, riprendi. Ciao Claudio, tanti auguroni a te, a Corea. Ciao anche a te, auguri a te, a Corea famiglia. Vabbè, io radio conosco solo a te, poi altri Giulio che entrano qua nel canale 10 non li conosco. Avanti, Antonio, riprendi. Non l'ho mai sentito nemmeno io. Chissà che no, non, magari gente che ascolta me. Già lo conoscete, tutti quanti lo conoscete, non è problema. Solo che lui non entra mai. Il baracchino ce l'ha, ne ha due, ne ha, ma non da adesso, da almeno 20 anni. Però non è mai entrato, qualche volta così, ma proprio raramente. aveva un'antenna autocostruita, dietro indicazioni mie e di un'altra persona che allora, che adesso ormai non c'è più, per cui, ma già mi hai capito, o clà, già mai compreso, via Gabriele D'Annunzio, boh, basta, non ti di quattro. Grande, un secolo che non lo sento. KK, adesso sì che ci siamo. C'è anche un altro Giulio che purtroppo non c'è più. Giulio Pallepio. C'era anche quello, ma quando avevo sentito che era deceduto, sì, è vero Tony, è da un po' di tempo che quello era deceduto, ogni tanto passava lì da me in falegnameria, non a scambiare due chiacchiere, perché non è che avevo molto rapporto di discussioni con lui, eccetera, però ogni tanto io veniva a rompermi un po' l'anima, tra virgolette. Però in cielo ci sia anche lui, va, magari dai, ci mancherebbe altro. Vabbè, anche lui ha avuto una vita un po' pesante, difficile, dai, non pesante, difficile più che altro. Avanti anche tu. No, Giulio non è morto, assolutamente. Giulio è stato male, era ricoverato in questa casa di cura, non so, praticamente non parla. Ok, non parla. Cioè, va così fa, non c'ha più voce, me. Ci ha avuto qualche tumore alla gola, non so. Ma a me mi ha detto, non voglio ricordare male, che comunque non lo dico, che ha detto che stava male, è ricordato con la serena, e ha preso il Covid ed è morto. Questa è la persona, c'è la persona che in cui me l'ha detto a me. Ma quando questo? Da poco? Però sarà, che ho fatto mesi fa, l'ho detto. No, l'ho visto da poco io, sono balle che te l'ho detto. La mazza di riguardo di Domburo, io faccio giù, mi si piace, ma come si mettono le balle questi cibi? No, assolutamente, Giulio non è morto. Lo vado spesso, metto vicino a casa mia. Lo so. Dall'altra parte è opposta di casa tua, di fronte. Sì, vabbè, diciamo che mi risulta di fronte a me, dai. La parallela di via Grazia Redda mi viene vicino, dai, non è che sia molto lontano da me. Due passi da casa, diciamo, dai. No, non è morto, no, dico solo cazzate. Ma io anche a me l'avevano detto, che era deceduto, cioè no. Praticamente non è stato bene, praticamente lui non si vuole più di là. Lui vivrà solo a casa sua. Così me l'ha detto, così ti sto dicendo. E così ho detto anche poco fa in frequenza, perché come stavo parlando di questo Giulio, tutto qua. Avanti di qua. Vai Giulio, vai. Ok. Vabbè, allora meglio così, dai. Meglio così, sono contento per lui che sia ancora vivo, per carità. Io appunto avevo sentito tempo fa, non mi ricordo da chi, in frequenza stessa avevo sentito che era deceduto, invece no, era un falso allarme e sono contento che sia così. Bene. Abita di fronte ai giardini, dai, del Monte Rosello, diciamo. Siamo lì, in quella zona. Ok, e poveretto, anche lui è un povero diavolo, come tutti del resto, cosa vuoi fare? D'altronde così, la vita è crudele e non smetterò mai di dirlo, è crudele con tanta gente, è molto crudele con altra gente, lui è uno di quelli che probabilmente ha la vita molto crudele. Avanti, Antonio. Può capitare nella vita che uno, c'è così, cosa vuoi fare? Io un po' di capolate dico, ma non hai, cioè se l'ha visto Luca vuol dire che lo conosci, cioè non è moccio, ma io non mi ricordo di questo, magari un po' di anni fa parlava, cioè non mi ricordo io. È un po' di anni fa. Io dico questo, non è giusto parlare di una persona che non c'è più, che invece è vivo, questo mi dà molto fastidio, non so cose che si dicono. Cose che si dicono, no. Dai, uno, o l'ha detto come battuta spiritosa, ma non è certamente uno spirito accettabile, ci mancherebbe altro, sono parole dette così, tanto per aprire la bocca e dare fiato, no, non va bene così assolutamente. per qualsiasi persona, può essere la più brava persona del mondo, può essere la persona anche più cattiva di questo mondo, però certe cose non si devono dire se non corrispondono alla verità, perlomeno. Vabbè, dai, comunque meglio voi, sono contento allora che sia sempre tranquillo. Avanti Claudio. Io non so se l'ho visto in questo periodo, ma non penso comunque. Vabbè, avanti Anto. La verità, non lo conosco, non lo so, però non è giusto dire di una persona che non c'è più quando invece c'è. Infatti non è giusto, no. Va bene, dai, voglio fare di nuovo una chiamata a quest'altro Giulio, questo mio grande amico, che ci conosciamo da vita insieme, abbiamo passato tantissime ore insieme anche, soprattutto anche le ore di lavoro, perché ogni tanto ci vedevamo, anzi, o andavo io da lui o lui veniva da me in falegnameria, oppure io andavo in officina. Attento Giulio, ci sei in ascolto? No, non risponde, dai, non risponde. Mio, l'antenna non funziona più perché ce l'ha piazzata da almeno 20 anni, autocostruita tra l'altro, come ho detto poc'anzi, oppure non è in collegamento in questo momento. Vabbè, dai, non fa niente. Io stamattina ero con lui al telefono per oltre mezz'ora. Avanti Tony. Anzi, c'è anche Luca, fai venire avanti Luca dopo Tony, vai. No, avanti Luca, vai. Ehi, cosa? No, è chiuso. Sì, beh, certo. No, vabbè, comunque la gente va a dire cavolate, dai, no. Ripeto, anche a me avevo sentito voci di corridoio che era morto, capito? Invece no, ha avuto questo problema e non fuma più, non beve più. Si è bevuto le sue birrette, si è fumato le sue sigarette, adesso basta. Ma questa persona che ha detto a me l'ha detto in verticale, non è che abbia detto sì, tu usi il baracchino, no, di persona. Ce l'avevo visto e ho detto, ma è tizio, non c'è più. E mi ha spiegato che da quando è morta la madre, l'hanno ricoverato, stava male, casa serena, si è preso il culo ed è morto. Queste parole, boh. Mica ogni tanto già entra qua, ma comunque quando lo sento io, grazie e bravo. No, perlomeno io l'ho visto, guarda, un mese fa, a dicembre l'ho visto, perciò impossibile che sia morto. Ripeto, è stato male, l'hanno preso per i capelli che non ha, perciò niente, non parla, la comincia a voce, così parla. E la macchinetta quando l'hanno usata? Non lo so. Comunque quando parla dal labiale capisci quello che dice. Io conosco lo stesso amico, uno si chiama Romano, è stato operato, infatti c'è la macchinetta per parlare, se lo mette un giro al collo e parla. Anche se non è proprio chiaro, ma si sente abbastanza bene quello che dice. Avanti qua. Vabbè. Non so cosa dirvi, io so chi è, ma non ho mai avuto nessun rapporto. Ciao in radio, però so chi è perché lo conosco. Avanti Giulio, riprendi. Vabbè, no, io già l'ho conosciuto abbastanza, perché ripeto, almeno una volta alla settimana si fermava davanti alla mia bottega e mi diceva quattro fesserie e altrettante quattro le rispondevo io sempre di fesserie, e poi se ne andava, salutava, ciao lavora, mi diceva, beh certo, sono qua per quello e via, niente di particolare. Comunque mi dispiacerebbe se fosse veramente così che ci ha deceduto, ma anche perché ancora era abbastanza giovane, non era così in età avanzata, molto più giovane di me. Vabbè, oi, santa Madonna, quante cose che nella vita si devono dire, alle volte così, magari fasulle, parole fasulle. Vabbè, avanti a tu. Sempre così, la vuoi faccio. Purtroppo la gente ti parla, però poi magari no, quello non è così. che sono così. Chiappa. Avanti, Paotoni. Chiappa. No, niente, io ci ho mai contato, la verità mi aveva rotto le palline e infatti sono andato a prendere un improvviso perché frequentava Mario Pirigatto. E con le minacce che ci aveva, sembrava chissà chi, caso se n'è andato, ma Cavigliano voleva comunque a fianco. Ecco, ho conosciuto Giulio, padre Pio, non basta, chiuso. Non l'ho mai frequentato, sentito frequento, l'ho visto, ripeto, per un'occasione lì e basta. Era meglio se non lo conoscevo comunque. Non ho avuto mai a che fare io con certe persone, chiuso. Comunque ripeto, anche se, eravate morto con mai con questa persona, mi sarebbe dispiaciuto perché se non c'è mi, capito, che ho conosciuto anche in mani con occasione comunque. Ok, Tony, sì, infatti mi ricordo bene questa particolare. L'ultima volta che io l'avevo visto, e l'avevo anche chiesto, ma ancora c'era il baracchino? Infatti no, l'ho dato e mi ha fatto anche il nome a chi l'ha dato, ma non lo dico in frequenza perché non è corretto svelare certi argomenti. E mi ha detto no, non ce l'ho più, l'ho dato e eccetera eccetera, altissimo e basta, niente di più. Ma poi da quel momento, lo so Tony, quello che stai dicendo tu corrisponde a verità, perché aveva la nomina di portantista, molto insistente anche, più di una volta è stato incolpato, poi se era lui o meno non lo so, che metteva la portante eccetera eccetera, poi l'antenna non ce l'aveva più e da quel preciso istante aveva un antennino sulla finestra e che poi praticamente era nullo, perché con un antennino non è che facesse più di tanto. Va bene, dai, comunque andare avanti. Luca non c'è, avanti a tu. Cappa, ma cosa facevi così, questo scemo, cioè si metteva a mettere la portante a mano per la matti. Avevo quella nomina tu, e dunque perlomeno la gente, tanta gente lo incolpava, dicevano che era lui che metteva la portante, ma poi so che aveva avuto un pochino di problemi anche nel condominio a riguardo delle interferenze eccetera, e allora lui aveva optato per un antennino da balcone, ma a quel punto aveva ormai le ali spezzate tutto sommato, perché non poteva fare più di tanto con un antennino. Va bene, vai Tony. Sì, in effetti si è basso un po'. In effetti è successo proprio quello. E poi ho detto cosa, è entrato, il segnale suo e mi ha detto che lui aveva la motosega e mi tagliava le gambe. Va bene. Un bel giorno in ascolto e Mario Quedigato abitava 30 metri da me. Ehi, sono venuto da te Mario, io non l'ho dovuto, mi sono nascosto, mi sono visto entrato nel portone di Mario Quedigato, sono andato, ho usato la spalla e beh, indietro la motosega. Andava via benzina e la motosega, e pensi che non è riuscita a mettere in moto, ecco qual è il problema. E mi ricordo che ce l'aveva in maniera particolare anche con Tore Cioppelli, avanti, diciamo anche il nome, ce l'aveva anche con lui, molto spesso erano vicini e dunque si negavano i luci l'uno con l'altro a posto di portanti. Comunque, andava bene a te, dai, non c'è problema. Avanti Claudio. Sì, venire di macchia di Gardena, ma non è che poi alla fin fine i risultati erano sempre quelli, quando andavi poi a trovarli ci guavano. Va bene, dai, continuate, io rimango in quelli. Avanti, Anto. Gaffa, ma proprio macchia di catena mia, cavassi in i rocci, ma che cosa? Non capisco perché comportarsi in quella maniera. Oioioi, tutti forti, dai, tutti forti. Tutti forti. Ora ciappava erano dei gattini poi. Erano altri tempi, Moco X e Claudio. Era diverso allora, capito? Sì, Moco X e Claudio. veramente certa gente non la capisco, certa gente. Dopo c'ha più l'orgoglio di troncare anche, che cosa hai fatto? Hai fatto rumacco, ma che cosa? Era di moda allora, in questo periodo, le nome di gente macca, e dunque era uno di gli ma tu cosa ci vuoi fare? D'altronde, sai come te? A fianco di uno, così all'altro, compreso, ecco come c'era, così si dizia con la vostra Sassari, a fianco di uno, così l'altro. Però da voi, quando andavi a ciappallo, era uno smilzo, e dunque, si guava, no, della Ianna, no, sotto la mattone di casa sua, comunque. Siamo misani. Vediamo se è rientrato Luca. Attento Luca. Ciao, se tu parli di nuovo perché non ho capito che sei. Un'idea me la sono fatta, vediamo se così in me stesso ho indovinato. Avanti, di prova. Bruno? Vittorio? Bruno, così è, non ho capito, sei basso. Ma Bruno chi? Sì, è Bruno, ciao Bruno. Ciao Antonio, è ben ascoltato, soprattutto gli auguri di buon anno. Per il Natale non te li faccio perché ormai è passato, casomai te li farò il prossimo anno, se Dio vuole. Ciao Bruno, poi l'altro giorno ti ho citato con un amico parlando di notte, e appunto, e penso che gli faccia piacere di ascoltarti, perché gli avevo detto che è rientrato in frequenza dopo un bel po' di anni. Riprendi Bruno? Ok Bruno, sì, ho capito benissimo che non hai l'antenna e dunque hai un problema. Sì, beh certo, questo sì. No, ma gliel'ho detto, guarda che molto spesso, proprio per sfruttare l'altura, per farsi sentire un po' meglio, si mette dalle tue parti. Adesso tu immagina, tu sai dove vai e cerca di capire di chi sto parlando, dai. Un amico comunque, va bene. Comunque io sono convinto, per come mi ha parlato, che le farebbe piacere se tu ti facessi sentire anche da lui. Va bene, faccio girare, c'è Antonio Bombo con noi, poi c'è Claudio Querreichis e c'è Tonino Kawasaki. Vai per chi vuoi, Bruno. Tanti auguri, e felice anno nuovo, speriamo che sia migliore. Sì, ma non ho capito, che Bruno sì, ci siamo visti da poco, vabbè dico poco, non tanti anni fa, in qualche supermercato sono vagherato. Ero indeciso, ma lui non è lui, sa con questa antennino che c'hai, perché infatti segnale non è che sia molto forte comunque. Vabbè, io sono fuori Sassari pure, come te dico bene o meno. Anche a me fa piacere che sia rientrato di nuovo nel 27. Un immenso piacere, la verità. Bene, Meda. Ok, andavi dalla CBC, facevi più come ho fatto io. Con questa mattina ci portavo l'onda e me la sono piazzata. Ok, Antonio, avanti per Bruno. Capo, dai. Ma adesso è molto distante, Bruno, perché lo sento basso, lo sento. Da che zona sei, Bruno? Bruno, tu. Ti ho chiesto che zona sei. Io, in zona di Corso... Corso Trinità, lì, zona Santo Pulinare. Ma tu, ce l'avevo con Bruno, non con te. Allora, Antonio è zona Santo Pulinare, dai. Tu, Bruno, ho capito, tu ti ho sentito sotto, ma sei passato lo stesso. Zona via Giovanni Pascoli. Forse per quello che ti sento bene, Bruno. Io sono zona San Camillo. Un attimo. Nel capo. Comunque, metti l'antenna, dai, così ci ascoltiamo la sera, cavolo. Avanti, Giulio. Ok, Tony. Ascolta, poc'anzi tu hai detto che Bruno sì. Fammi capace e vediamo un po' se io ho pensato subito quello che magari stavi pensando tu. Non vorrei sbagliarmi, ma probabilmente, perché di Bruno io in frequenza ne ho conosciuto solo due. Uno è lui, Bruno Ragano, e l'altro è Bruno, il figlio della buonanima. Non so se tu ci sei arrivato, se te lo ricordi perlomeno. Allora quando modulava il padre era abbastanza piccolo lui, giovane, dai. È giovane anche adesso, chiaramente. Vediamo un po' se tu hai intuito di quale bruno sto parlando io, Tony. Alludevi allo tuo bruno che sarebbe il figlio della buon'anima di Passero, che è anche piccoletto, che lavorava anche all'ospedale di Arezzito. Bruno Perfido. Bravo, Tony, bravo, hai una memoria di ferro. Bruno, figlio di Bettina, l'ho partorito Bettina, nonché Giovanna, il nome di battesimo, è figlio di Capino, buon'anima, adesso sono un bel po' di tempo senza vedere anche lui, da molto tempo, almeno un paio d'anni, buoni, forse anche di più, sì, anche lui prima lo vedevo molto spesso, ma invece adesso, ormai ci siamo allontanati, anche perché io mi sono spostato da Monte Rosello e pertanto non sono più assiduo in quella zona, anche se ci vado spesso, però non sono più assiduo, di conseguenza non vedo più le persone che ero abituato a vedere quasi giornalmente. Va bene, dai. Hai intuito benissimo, abbiamo avuto lo stesso pensiero. No, perché c'è anche l'altro bruno, il pittaiolo, e il marito a te non ti interessa probabilmente, Tony. Ma io conoscevo anche un altro bruno tempo fa, sto parlando più di 25 anni fa, Bruno Scaldabagno. Io il cognome, cioè il nominativo Scaldabagno già me lo ricordo, anche se in maniera molto, molto sporadica, così perché l'avrò sentito qualche volta e basta. Però non so di che stai parlando, la verità. Mi stato Bruno, ma non stai confondendo con Bruno il pizzaiolo di cosa? Dello sventramento, lì, del barchetto dello sventramento, dietro il lupin vecchio del corso. Come tanto sono andato a pensare, Donia, te lo immagini? In caipetta addirittura, no. Ma come ho sentito Bruno? Avanti Bruno. Ma non c'ha più antenne Bruno. Non l'ho più visto. Più anni. Bene, bene, comunque. Fa sempre piacere sentire un vecchio CB che non si vede più, non si sente più, lo vedi rare volte e poi se lo senti frequenza, mi perdono CB, ma poi comincia a aprire i cassetti della memoria. Va bene. Antonio, mi dispiace che tu, cioè lui non ti sente, siete più Pio. Non lo so, io già lo sento un po', già lo sento. Ma che stai parlando? Bruno Pizzaiolo, io lo conosco bene Bruno, ma pure lui è a CB. Io non ho mai sentito Bruno Pizzaiolo, lo conosco anche in persona, una vita lo conosco. Addirittura stiamo parlando di quello che c'era sotto i portici dello più vecchio, Giulio. Sì, era sempre lì, al ristorante c'era sempre lì. Sì, no, non ce l'ha mai avuto lui, perlomeno io non so, ma non ha mai avuto il baracchino quello lì, tu, no, assolutamente. Era solo una battuta, no? Perché io ho fatto questo ragionamento, no? Siccome Tonino, bene o male, era vicino a quel pizzaiolo lì, considerando che abitava nella stanza di Vecchia, eccetera, eccetera, e magari gli è rimasto in mente quel Bruno, ma era solo il mio pensiero, no? Non ti offendere Tony, era solo il mio pensiero e ci mancherebbe altro, era una battuta più che altro spiritosa, niente di particolare Tony. comunque dire la verità Tony, sentire che le persone esistono ancora, che sono sempre in vita, a me mi fa piacere, mi fa veramente piacere, e tutto questo va bene così, avanti Tony. No, tranquillo, non ci sono problemi, ma io Bruno l'ho anche visto perché sul mercato, capite, ci ho anche parlato, lui è in pensione, è venuto lui, io ci vado quest'anno in pensione. Niente, che ti posso dire Bruno, io al 13 sto partendo a Ravenna perché mi devo operare all'Enel al disco, e sono 8 mesi che mi vado in mare, questo problema ce l'ho da 6 anni, punture, cure, mi passava pure di vita dopo 2 anni, alla fine adesso è ridotto il dolore forte e non mi passa più, ho deciso, ho fatto un visito già impegnativo per l'ospedale, tutti d'accordo e me ne parto, io e mia figliuccia. Allora mi risolto il problema, vado in pensione e cammino con le mie gambe, non cammino tutto sotto, ma comunque se si può fare qualcosa, facciamo tutto quello che si può fare Bruno, perché la saluto il nostro, siamo di passaggio, godiamocela bene, se è possibile. Io mi sono trascurato troppo con la paura di operare, eccetera, mi è venuto coraggio di dire basta, non ce la faccio più. Quindi questa è una depressione, voglio fare tante cose che ho in mente di fare, cose che ho già iniziato a fare, però poi ho bloccato perché non ce la faccio. Tutto qua, avanti Antonio. Sbagliato microfono, scusa. Fai bene tanto. Appena che ti una depressione te la spazi, te la godi come vuoi tu, adesso ti operi e almeno stai bene. Scusai, c'ho un microfono preciso e gli ho preso a posto, ho risposto con quello preciso, Scusami. Giulio. Ok, riprendo io allora. Beh certo, va bene così. Sto incominciando a perdere la modulazione di Bruno, cioè il QRM che si ha aumentato un pochino qua, lui mi sta levando molto basso di segnale, per cui sto facendo un po' di fatica. Bruno, non ascoltarti. Dimmi una cosa Bruno, non voglio sapere niente di particolare, di preciso, ma di preciso però intendo, però la zona la voglio sapere, tu sai dove abito io, no? Tu in che zona abiti? Prima sapevo benissimo, praticamente siamo, non dico cresciuti insieme perché io sono molto più grande di te, però eravamo vicini di casa quando io ero montanaro allora, giovincello, e tu ancora ragazzino, e dunque ci siamo conosciuti e ci conosciamo 50 anni, anche di più. E volevo dire, in che zona abiti? Non è che voglio usare la via del numero civico, è la zona dove sei, dove abiti di casa, Bruno. Ho capito Bruno, sì, ho capito dove, ho capito. No, va bene, dai, tu già lo sai dove abito io, sai anche, una volta ci siamo visti addirittura, poi per davanti all'ingresso di casa mia, mi ricordo questo particolare, per cui tu stavi passando, come hai detto, l'officina che c'è di vicino, ma quell'officina è chiusa ormai da tanto tempo, però evidentemente tu vai a trovarlo lo stesso, perché intanto so che quel meccanico abita sopra lì e quell'officina, credo, e non lo so di preciso, comunque, perché a essere sincero non è che conosco molte persone qua, Bruno, no, assolutamente, nonostante che io di punti abito esattamente dal 1971, se ricordo bene, non sempre in questa strada, prima ero in via Arcidiacono, è diverso, e cioè praticamente la strada parallela alla 131, allora lì ero in affitto, poi avevo comprato una casa vecchia che l'ho buttata demolita completamente e mi sono costruito la casa all'interno degli punti, sì, nella zona diciamo più antica, più o meno. Va bene, comunque tu già sai dove sono io. Va bene, d'accordo Bru. Ci sentiamo, speriamo di incontrarci di persona, così almeno, magari che senza virus, che è la cosa migliore. Ok, avanti Tony. Ma sei facendo pure di Giulio? No, assolutamente no. Non ho detto che faccio QRT. Volevo solo sapere, per capire più o meno in quale zona modulava adesso Bruno, perché mi arriva bassissimo, sentivo 4 mio, a livello di QRM e faccio fatica, ci devo mettere l'orecchio quasi sull'altro parlante della radio per capire quello che dice. Però va bene così, dai, non c'è problema, riprendi Tony. Ecco per me. Giulio, ma hai detto da ci sentiamo Bruno, ma Bruno Coretti non lo sta facendo, e quindi per quello che te l'ho chiesto. Comunque Bruno mi arriva a Santiago, 9.5, la rete 5, se si mette l'antenna mi sfonda lo smitter, avanti Bruno. Ecco per me. Sì, ho capito Bruno, ho capito bene quello che hai detto in questo passaggio. Ok, va bene, d'accordo. Cosa dire? Cosa dire? Non lo so. Ad esempio, so dove abita anche tuo fratello Aldo, però anche per lui, con lui sono tantissimi anni che non l'ho più visto, parecchi anni. Senz'altro è in pensione, anche lui, non ci sono dubbi, perlomeno io penso, sicuramente è così, a meno che non l'abbiano richiamato per dare manforte alle operazioni di cure a riguardo del virus eccetera, perché so che hanno chiamato diverse persone anche in pensione per poter far fronte appunto delle cure del virus corrente. Purtroppo è così, ma suppongo che anche lui sia in pensione da tanto tempo. Confermi Bruno che Aldo è in pensione da tanto? Ok Bruno, ok, sì, lo so dove abita di rimpetto all'altro amico che appunto fa parte della nostra greffa CB. Va bene, dai, senza fare i nomi sempre. Avanti Tony. In capo, Antonio ha fatto per X, e sto dicendo a Bruno che se si piatta l'antenna mi capota lo smitter. Avanti, Bruno, mi interessa solo la radio, ultima è Bruno. Hola, c'è qualcuno su 10? Sì, sto modulando. C'è uno sul fondo che sta parlando, chi è Antonio? È Bruno, un attimo. Ma con chi sta parlando? Con lui sta parlando, con me. Ho detto solo questo, Bruno, non mi interessa il segnale, ma come radio mi ascolti sempre bene. Ok, fa piacere. È entrato a fare capolino, nonché Roberto lo manda avanti, e Bruno Uragano, vecchio CB, Roberto, avanti. E poi in compagnia di Giulia, e Antonio Corix, avanti. Ciao Bruno, non so se mi ascolti, io ti sento proprio basso, sono al fondo, a livello di QRM, non riesco a capire quello che stai dicendo, non so in che zona stai trasmettendo, però sei basso, speriamo che tu mi stai copiando, ti rilancio il mic, eventualmente mi fa da ponte qualcuno che ti ascolta meglio. Avanti Bruno. Tony, non ho capito cosa ha detto, mi ascolta o che cosa? Sì, mollato adesso, a me mi arrivano le 5, capito? Lui si trova in macchina, via Giovanni Pasquale, prima rotatoria, con un antennino a calamita, ecco perché tu lo ascolti in basso e lui ti ascolta basso, idem. Vecchio CB e Bruno Uragano, tutto qua. Aspetta che rilancio per Giulio, avanti. Ok, ciao Roberto, ben entrato. Sì, confermo quello che ha detto Tonino, lui purtroppo è in macchina e dunque non è attrezzato di antenna performante, per cui ti sente basso sia a te che a me anche, tra l'altro, Robè. Comunque, dai, adesso gli auguri in diretta, oltre che al telefono in diretta, Robè. Ehi, stamattina, aspetta che faccio una chiamata, così capisci subito anche tu. Attento Giulio, ci sei in ascolto? No, non c'è, vabbè. Avrei capito, Robè, di chi sto parlando, dai. Tempo fa te l'avevo detto che anche lui aveva il baracchino, però non entrava mai, ma di tanto in tanto un po' di ascolto lo faceva. Avanti Roberto, se hai capito. Spero, Roberto, tanti auguri, che l'ho detto prima, e buon anno. Ok, li ricambia tutti e due, Giulio, ci siamo sentiti per messaggio, dai. Auguroni a tutti, che sia un anno migliore, sicuramente deve essere per forza migliore di quello passato, che peggio di così non poteva andare. Ho capito Giulio, il tuo omonimo e il tuo vicino, diciamo, di lavoro, dai. Ho capito, dai, sono contento che anche lui abbia messo, si sia messo in mezzo a fare qualcosa anche lui qua in radio, dai. Ok, di nuovo a te Giulio che fai girare per Tonino. Ok, casomai faccio girare per Bruno dopo. Sì, beh certo, noi da adesso, Rebecca, il baracchino ce l'ha farà almeno 20 anni, dunque non è mai entrato, eccetto qualche volta proprio solo per provare e basta, dietro magari appuntamento telefonico prima, proprio per vedere se, non lo so, lui ha purtroppo ha questa idea, non entra mai, però di tanto in tanto dice una puntatina in ascolto, infatti stamattina me lo stavo dicendo, accendo, non c'è mai nessuno, fatto guarda se ci vuoi sentire, ci devi sentire da sera, un po' tardi, almeno proprio quando è presto sono 5:30 e oltre, anche alle 7 ci potresti sentire più o meno, infatti per quello che ho fatto chiamata per vedere conferma se era l'ascolto oggi, perché proprio stamattina ci siamo sentiti al telefono dopo un anno. Purtroppo non ci vediamo più a causa del Covid, prima ci vedevamo molto e eravamo molto frequentatori insieme, pertanto sia lui che io, o andavo io o veniva lui da me, era quasi una visita giornaliera che ci facevamo per vari motivi, sia per amicizia e anche per questioni di lavoro eccetera, o perché io avevo bisogno di lui o perché lui aveva bisogno di me, tutto lì, vabbè. Va bene, dai, ciancio alle chiacchiere, avanti Bruno. Insomma, più forte ti arrivo io, ho capito. Vabbè, in zona siamo quindi. Bene, comunque, Bruno, sentite così perché in condizione di parcare, diciamo, con l'antennino in via Giovanni Pascoli, quindi non è che è in macchina, una mini antenna, non è fatto attendere molto. Comunque mi auguro, Bruno, che tu ti piace una bella antenna, anche minimo quattro d'onda, mezz'onda, tre ottavi, quello che ci sia, almeno rientri di nuovo a far parte della cerchia. A me, ripeto, sentirti mi ha fatto un immenso piacere dopo tanto tempo, anche se ti ho intravisto tempo fa, non molto, sul mercato, ma anni che non ti senti in frequenza e sono veramente contento. Anda bene, avanti Giulia. Ok, beh certo, il piacere è reciproco anche da parte mia, Tony, figurati, con Bruno siamo amici da oltre 50 anni, se ti puoi immaginare. Da quando io sono entrato in frequenza, Bruno è stato uno dei primissimi CB che io ho conosciuto. Il primo in assoluto era Antonello Norton, Bruno, nota questo nominativo, che anche lui adesso sono un po' di tempo, mentre invece Costanzo, il fratello, lo vedo di tanto in tanto, anche perché abita nella via dove io lavoravo, lui ha l'appartamento lì, eccetera eccetera, che tra l'altro gli ho fatto tantissimi lavori, compreso veranda e scala e legno, tutte queste cose qua, grande personaggio, grande amico, eccetera eccetera. Anche lui ha tutta l'attrezzatura, però ha detto che non le piacerà più, purtroppo, ma non da adesso, ce l'ha da tantissimi anni, perché lui aveva avuto tutta la stazione radio della buonanima di come si chiamava, il suocero praticamente di Antonello, Ancora, ecco l'amico Ancora, che usciva fortissimo, e ha anche il Terne più 3, ti puoi immaginare, o Bruno, vecchio baracchino, il baracchino di Ancora, ti ricorderai di Ancora. Avanti Bruno. No, scusa un attimo, ti rilancio subito. No Bruno, non aveva il Consat 25B, aveva il Consat 35B, quello, la versione dopo, quello migliorato tra l'altro, più bello, ancora più bello del 25B, me lo ricordo come se fosse oggi, infatti una volta ce l'abbiamo corso, io ero alle prime armi allora e avevo un pony 6 canali e ce lo siamo corso, abbiamo fatto una gara, Porto Torres mi aveva dato a me un segnale più forte del suo, io avevo un pony 6 canali, avevo, che mi dava 5,8 watt, quasi 6 watt di potenza, e mi ricordo Gabriela e anche il marito eccetera mi aveva dato un segnale un po' più forte del Consat 35B che aveva la coppia fratelli Antonello o Blu, Antonello Costanzo, tutto lì o Blu. Va bene, rilancio per Tonino, non voglio annoiare nessuno. Avanti Tonino. Carlo, vediamo se la mia memoria è ancora fresca. Mi avete parlato di Ancora, Italo Rai, attraverso di Via Sicilia, lavorava come conduttore caldaia e vapore a San Camillo, confermi Giulio? Confermo, alla grande, grande appassionato anche lui di radio, e si costruiva l'antenna, ce l'aveva sulla ringhiera del suo poggiolo, ma usciva che era una meraviglia, un'antenna tutta ben fatta, e tutti i radiali ancorati allo stilo centrale, tramite fili e filetti, naturalmente fili isolanti, tipo nylon, eccetera, questo è ovvio. Ma usciva che era una meraviglia, aveva una radio straordinaria, proprio veramente, veramente straordinaria. E vabbè, anche lui purtroppo è mancato. La vita è fatta di queste cose. Avanti, deprendi, Tony. C'è tratto, Sì. E lui era molto cordiale quando entrava, salutava e poi diceva sempre che aveva un'antenna, una Starbuck specialist. Era molto salutare quando si entrava, se il 351 come familiare era una persona veramente in gamba, l'ho conosciuto anche quando trabaccava, quindi. Scusa il ping pong, Roberto, bene. Ma con chi state parlando? Io non sento nessuno. Vabbè, vuol dire, stamattina ho Claudio, così la bicicletta, ti dico, allora ti sei dimenticato di lavare le orecchie. Non sente nessuno, ma se sei l'unico che sente, veramente, cosa si risvegli? Sente dall'altro capo del mondo, sì, c'è pure, adesso mi viene a dire che non sente nessuno. a me Bruno, come lo state chiamando voi, manco l'angolo Schmidt si muove. Non so se sta parlando a qualche cantina o se è vicino a voi, io non sento assolutamente niente. Quindi rimango in quel Rix, perché quando non sento non mi piace parlare. Prima due. Ok, no, faccio girare subito per Roberto, che è in parcheggio da molto tempo, se non si stanca e chiude tutto. Avanti Roberto. No, non vi preoccupate, continuate pure a fare. Lo sento piccolino piccolino, diciamo tutte le parole non lo sento di Bruno, perché c'è un po' di correme proprio nel fondo, lo sento, mi dispiace. Comunque ciao Claudio, ben sentito anche a te. Ho sentito, mi sembra, anche Antonio. Antonio, tu sei rientrato? E capa, rientrato, sono Bruno, lo sento Santiago 2 io. Però non è che arrivi chissà quanto, non lo so se mi sente anche lui, boh. A tutti, senti, a livello QRM, Claudio, allora, Bruno è Bruno Uragano, te lo dico così. Ciao, so che lo conosco anche di persona, è molto molto bene, molto molto bene, ma sono dall'altro giorno che gli dico di mettersi un'antenna, perché qua non arrivo. Io lo sento quando parla lì dalla, da San Francesco Alto, non lo so, in macchina, ma se a casa sua qua non arriva, per niente. E poi ho fischio appresso, Claudio. Un fischio? Cazzo di appreso adesso. Capito? Io no, non lo sento, da casa sua non lo sento, lo sento solo dalla macchina quando parla la via di San Francesco. Gatta, sì, in effetti anche io la conosco da molto, tantissimo tempo, da molto, di persona è tornato. Bene, bene, sì, c'è in macchina con la mina Antinino Calamita, via Giovanni Pascoli, la prima rotatoria, quella zona lì è posteggiata lungo, ecco perché molti non ascoltano. Antonio, a te ti ascolta e a livello QRM, capito? Già l'ho sentito, già cosa ha detto. Boh, forse è un punto balordo, è per quello che no, non riusciamo a sentirlo. Io lo sento Santiago 2 qua, lo sento, però... Ma in linea d'aria, Giulio, io dico questo, Roberto. Allora, io sono fuori Sassari. Antonio è zona, diciamo, questa polinare. Come è, Antonio, tu lo ascolti così e sei più vicino di me? Non lo so, evidentemente è negativo per me. Prego. Antonio, ma che cazzo di paragoni fai? Se ce l'hai lì sotto, è davanti a te, per forza lo senti. Prima di arrivare qua su ce ne vuole di buccia d'arancia. Avanti, Brex. Un saluto festoso a tutti. Buonasera a tutti, Marco. Sono tornato poco fa da casa, stavo un po' ascoltando. Saluto Tonino, Giulio, Bombolo, Bruno, che anche qua zero totale, proprio zero totale, non arriva. Probabilmente è zona talmente negativa per su che non si spiega. Ciao Claudio, non so chi altro c'è, forse anche Roberto. Rilancio per Tonino. Ciao Presidente, è benedetto Scorpio. Ok, insomma, l'unico che lo ascolta. Claudio, tu ci hai sotto. Sì, ma in linea d'aria, a tu non è che sia molto distante, lì. Quello volevo dire. Cavolo, c'è Marco che non lo sente proprio. Almeno io Santiago 2 lo sento, ma Marco che non è tanto lontano da me, non lo sente proprio. Avete parlato in due, Antonio con Claudio, non si è capito qui però. Ho capito Antonio un po'. Sì, praticamente confermo, qua zero totale, è una cosa inusuale mi, perché a Tonino stavo ascoltando i 95 e fategli un interrogativo da parte mia, che antenna veicolare sta usando? Una performante o una di quelle piccole mini compatte? Vai Tonino. Quelle piccole piccole sta usando, anche la base magnetica in macchina. Una Colibri sta usando, un'antenna di 40 anni fa. Colibreia, vabbè, la conosco poco perché però so che è il minimo, proprio il minimo termine come antenne, va bene. Io tanto rimango all'ascolto, adesso è quasi ora del caffè, quindi rilancio, vediamo che mi viene in mente. Giulio, riprendi tu, io rimango in Core X. Rinnovo gli auguri, se li ho fatti non me ne ricordo, scusate. Vabbè, vi faccio gli auguri per un migliore anno, che l'anno che è passato è stato veramente disastroso. Vai Giulio. Scusa Marco, auguri anche da parte mia, vai. Sapete perché non li ho fatti prima, nel 2020, fino a ieri? Mi sembrava un insulto fare gli auguri, visto che non è per il 2020. Va bene, vai Giulio. Che non si si ripeta più una cosa del genere. Sì, beh certo, vabbè, comunque Bruno avrà modo di migliorare la sua stazioncina, visto e considerato che è ancora in fase di allestimento, ma lasciamo passare le feste e poi Bruno già è un esperto della frequenza, per cui non ha bisogno di consiglio di nessuno, sa come si deve fare, per cui va bene così. Comunque Bruno, prima lo fai e devi rimediare la tua trasmissione, meglio sarà, perché come avrai sentito ci sentiamo tutti molto basso all'infuori di Tonino, che si sente bene, ma evidentemente lì per lui si è in postazione ottimale. Da me Santiago 4, da Antonio Santiago 2, Roberto non si sente, si può dire quasi niente, Claudio lo stesso discorso, per cui sei messo male a livello di antenna. Va bene Bruno, ti lancio l'antenna e poi vabbè, ci darai la risposta. Avanti Bruno. Ok, d'accordo Bruno, non ho capito bene se ti stai ritirando, se hai salutato perché stai chiudendo, non ho capito bene, dai, casomai ci fa la fonte Tonino, che è quello che ascolta meglio di tutti. Avanti Tonino. Ma io con piccolo ultimo discorso non ho sentito bene, perché ho leggermente un colpo di cuore fortissimo, mi è arrivato, mi ha abbassato il segnale e poi è ritornato normale. Ma stavi chiedendo Bruno, ok K Bruno, vabbè, rimedia il tutto, metti una lanterna così almeno dai, ti sentiamo tutti grazie di Dio, non solo io. Ok, non correttivo, ha fatto il mio piacere, salutami in cuore, alle prossime, stammi bene. Avanti Giulio. Ok, va bene, dai. Allora, ciao Bruno, grazie per la chiacchierata. La prossima volta ti voglio sentire bene, alla grande. Così accontenti tutti quanti. No, non è un'osservazione, Bruno, sia ben chiaro, ci mancherebbe altro, non mi permetterei mai. Però tu mi capisci benissimo, non c'è bisogno che te lo spieghi. Quando uno arriva basso ci sono tante persone che hanno delle difficoltà nell'ascoltarti. Dai. Bruno, pensaci, dai. Dopo l'epifania ti voglio sentire molto molto bene. Ok, ciao Bruno, salutoni, saluti in casa, alle prossime. Avanti Antonio. Capa, salutoni Bruno. Ce la risentiamo alle prossimine, ok. Già lo sentivo, Santiago 2 già arrivava qua, però veramente in certi punti no, non ce la fa. 9-5 qua arrivava, vabbè. Claudio, avanti. Vabbè, a te ti arrivava 9-5 qua non arriva niente, vuol dire che è così. Io quando non sento è inutile stare a cicischiare. No, non mi va, io quando entro in radio devo sentire tutti. C'è stato già un discorso tempo fa che ha fatto proprio Giulio, quindi no, se non sento cosa, non so cosa sta dicendo, non so di cosa state parlando, non so di niente, quindi vabbè, ci sei. Dai, quelli che sono detto, vabbè Claudio, ti capisco perfettamente, come avrai notato dall'ultimo passaggio che ho fatto io, praticamente ho detto esattamente le cose che interessavano a te e a me anche, perché è un po' a tutti. Bene.